si vedono apparire i fantasmi dei ribaltonisti, sì. E allora diciamo si presentano, io sono Pier Ferdinando dei Casini, di quei sodali urlava il principale, e non secondo io son berciava fini, sia per il governo attuale sia potenziale. Terzo appariva il siculo lombardo, dall'occhio divergente e bocca alata, assai più scialbo e dal ceruleo sguardo, Rutelli rutellava in quarta fiata.